caro prezzo che ora son carezze a caro prezzo. Senti, tu che cammini su e giù, tu che giocavi con sesso, adesso chi sei tu? Oh, senti, di soldi stavolta.